Ancora una, poi smetto. Le serie TV consigliate da Marta Cagnola. Incollati, appiccicati allo schermo, quello della TV, del tablet o persino dello smartphone. Succede quando abbiamo iniziato una serie che ci piace, finisce una puntata e diciamo ancora una, poi smetto. Ovviamente deve essere la serie giusta. Come non sbagliare? Ci sono io e come sempre ci sono i miei amici più esperti in materia. Oggi torna con noi Emilio Cozzi, giornalista, scrittore, appassionato di cultura nerd e digitale. E ci porta nello spazio. Parliamo di serie di fantascienza e partiamo subito da una nuova serie di Apple TV, For All Mankind. Signore e signori, questo è un segnale che arriva in diretta. Sta accadendo veramente. I russi avevano mandato il primo uomo sulla luna. Pensavo fosse arrivare prima. La posta in palio invece è ancora più alta. Compiremo la missione, conquistare lo spazio per tutta l'umanità. Nixon vuole mandare una donna sulla luna. Qualcuno ha detto al presidente che non abbiamo astronauti di sesso femminile. Siete ufficialmente delle candidate astronaute. Non è facile, non vedo come potrebbe esserlo, Tracy. È pericolosa. Voglio esserci. È una serie che io, per come dire, anche predilezione personale, adoro, perché è una serie che si basa sull'esplorazione, che racconta un po' l'esplorazione spaziale, con un piccolo una piccola peculiarità, cioè ipotizza che nel giugno del 69, per cui un mese prima rispetto alla data che tutti ormai associamo al primo allunaggio di Neil Armstrong e Buzz Aldrin, ebbene i russi, nella fattispecie Alexei Leonov, peraltro astronauta realmente esistito, è morto a ottobre 2019, sia stato lui a mettere per primo il piede sulla Luna, determinando quella che chiaramente sconvolge la NASA e sconvolge gli Stati Uniti, quella che viene ricordata come Luna Rossa. Da lì in poi la serie, che è creata e scritta da Ronald D. Moore, tra l'altro, oltre a Matt Wolpert e Ben Nedivi, D. Moore è lo stesso che ha, per esempio, creato Battlestar Galactica, che è un altro colossal, un altro classico della fantascienza. Ebbene, da lì in poi la serie usa elementi veri, storici, compresi i nomi di astronauti e scienziati realmente esistiti. Addirittura c'è Von Braun, il padre del programma spaziale statunitense, ma per raccontare cosa sarebbe successo se. Una sorta di distopia al passato che è eccezionale, perché fa capire quanto intanto lo sbarco sulla Luna sia stato strategicamente rilevante, quanto abbia davvero cambiato il mondo e quanto un evento veramente relegato a una settimana sia determinante nel cambiare gli equilibri geopolitici e in realtà tutta la storia dell'umanità. Per questo è For All Mankind, che peraltro è una delle scritte che ci sono davvero, che c'erano davvero sulla targa lasciata sulla Luna da Armstrong e Buzz Aldrin, una targa in cui appunto tutti i più grandi capi di Stato all'epoca come segno di pace internazionale dimostravano quanto fosse pacifica appunto la missione lunare. Ebbene, invece il titolo diventa quasi la rappresentazione dell'importanza di un piccolo dettaglio per tutta l'umanità. È davvero una serie strepitosa sia per gli appassionati scientifici dell'esplorazione spaziale sia per quelli che amano andare di fantasia. Insomma, bellissima. Però per fare la cosiddetta ucronia, cioè il mondo parallelo, alternativo, bisogna raccontare bene la storia come è andata davvero, cioè bisogna conoscerla bene per raccontarla in modo diverso e cambiarla, per fare un enorme sliding door. È esattamente così ed è esattamente quello che la serie fa, utilizzando sostanzialmente le missioni che c'erano davvero, in quel caso realizzate, ma qui ipotizza solo progettate, perché poi in qualche modo l'Unione Sovietica riesce progressivamente a battere gli Stati Uniti anche dopo lo sbarco, per cui racconta cosa stava succedendo davvero in quel momento e cosa sarebbe successo se invece di realizzarsi il piano che conosciamo tutti qualche dettaglio fosse andato diversamente. È davvero deliziosa da questo punto di vista. Ripeto, i personaggi, tranne diciamo l'eroe della serie, sono tutti davvero esistiti. Infatti mi piacerebbe sapere come abbiano preso anche le loro famiglie e i loro eredi la rappresentazione di eventi poi inventati. E però chiunque si intenda un po' di spazio, ci sono Dick Slayton che era il capo degli astronauti, si vedono Armstrong, si vede Buzz Aldrin, si vede appunto Von Braun. Ebbene, quanto questi personaggi abbiano influito nella storia è benissimo noto agli sceneggiatori che per questo cambiano in lungo e largo le conseguenze dei loro atti. È davvero, da questo punto di vista, magistrale la serie, perché è quasi, mi viene da dire, un romanzo storico, sempre che la storia sia inventata. Apple TV, quindi una novità, una stagione sola. Per ora sì, poi è probabile che insomma altre cose succedano, ma per ora la stagione è unica e si trova ovviamente tutta vedibile in binge viewing, se qualcuno volesse approfittare di qualche notte brava per farsi davvero appassionare da una cosa che poi andrebbe anche ripassata nella realtà, perché la storia dell'esplorazione spaziale, che se ne dica, soprattutto nella Space Race degli anni 60, è stata una storia dal punto di vista geopolitico davvero significativa. Quindi la serie fa semplicemente un esercizio di if, cioè cosa sarebbe successo se, però la potenza geopolitica, le conseguenze geopolitiche dei fatti raccontati sono assolutamente reali e realistici. La guarderò sicuramente. Invece è già la quarta stagione, se non sbaglio, The Expanse. Posso farle una domanda? Le manca la Terra? Sconfinati cieli azzurri, immensi oceani fino all'orizzonte. Che cosa diavolo ci facevano laggiù? Ho un lavoro per te. Serve molta discrezione. Ho capito. Magari qualcuno vuole la guerra, non lo so. Ma se volete fermarla, lasciateci andare e ne riparleremo. La tua guerra fredda è finita. Questo è qualcosa di nuovo. Qui siamo a cavallo tra Netflix e Prime Video, perché c'è stata un'alternanza. Che cos'è The Expanse? Soprattutto, ce la consigli? Consiglio vivamente anche The Expanse. Beh, intanto è una epopea spaziale, come non se ne vedevano da molto, ed è basata sull'omonima serie letteraria di Daniel Abram e T. Frank, che in realtà la firmarono con lo pseudonimo di James Corey, per cui in realtà sono due persone che hanno appunto scritto questa space opera e di un libro. La serie in quattro stagioni è molto fedele e in realtà anche in questo caso, esattamente come For All Mankind, fa capire quanto a livello geopolitico gli equilibri ormai del nostro pianeta si giochino anche oltre l'atmosfera. Nella serie, che è ambientata nel 24esimo secolo, il sistema solare è colonizzato dagli umani e ci sono le colonie, o meglio le ex colonie marziane, hanno diciamo degli attriti con lo strapotere terrestre, perché sostanzialmente sono trattati da schiavi. C'è una piccola indagine del protagonista della serie che rischia di scoprire qualcosa in grado di cambiare gli equilibri di tutto il sistema solare. Appunto, siamo alla quarta stagione, dicevi bene tu prima, c'è stato un passaggio da sci-fi ad Amazon e la serie non è finita, andremo avanti appunto a vedere cosa succederà nelle vicende del detective di polizia che è Joseph Miller, per chi volesse saperlo, e che è partito da Cerere, anche in questo caso ovviamente un asteroide che gli esperti di astronomia conoscono molto bene. Ecco, mi piace sottolineare di questa serie anche la verosimiglianza, diciamo non scientifica ma fisica. C'è una bellissima sottolineatura, per esempio, i nati su Marte vengono ai noi e ai loro torturati semplicemente esponendoli alla gravità terrestre, che è tre volte più grave, appunto, e quindi questi ragazzi semplicemente appesi in una sorta di gancio vengono tirati e in qualche modo quasi soffocati banalmente dalla nostra gravità, e questo fa capire il livello anche di dettaglio di una serie che in realtà poi è proprio fantascienza pura, insomma. Nascita della piattaforma Disney Plus, subito amata dai bambini per tutti i cartoni animati, dai bambini diventati grandi per rivedere le storie dell'infanzia, ma in realtà una delle maggiori attrattive della piattaforma è stato questo The Mandalorian, dobbiamo dirlo. Dobbiamo dirlo, e dobbiamo anche far notare che solo, credo, negli Stati Uniti, prima addirittura che iniziasse, che come dire, che Disney Plus mettesse in campo tutta la propria potenza Forza di Fuoco, oltre 10 milioni di sottoscrizioni sono state fatte proprio per vedere The Mandalorian, perché in realtà ha promesso, prima ancora di uscire, di recuperare, come giustamente dici tu, i bambini un po' cresciutelli, in qualche modo orfani delle atmosfere della serie classica di Star Wars, quelle insomma dove abbiamo visto Han Solo e le gesta di Luke Skywalker, e anzi della famiglia Skywalker. Ebbene, in realtà secondo me la serie ce la fa in parte, o meglio, a me, devo essere sincero, ricorda le serie TV di quando ero giovane io, cioè da MacGyver a Supercar, per dire. Detto questo, invece, è ambientata appunto appena dopo la prima trilogia classica ed è estremamente abile nel titillare la passione e la fame del fan di quell'epoca. Nel mondo c'è più pace dopo la rivoluzione? È deplorevole che la sua gente abbia sofferto. Ma il cacciatore di taglie è un lavoro molto difficile. Ci hanno detto del suo arrivo. Ci hanno detto che lei è il migliore nel Parsec. Mandaloriano, guardi fuori. Sono pronti ad attenderla. Racconta di questo Mandaloriano, cioè di questo, per se qualcuno ricorda l'universo di Star Wars, questi adepti a una classe di cacciatori di taglie molto abili, quella a cui apparteneva per esempio Boba Fett, il cacciatore di taglie che cattura Han Solo nell'Impero Colpisce Ancora. Ebbene, è la storia di questo Mandaloriano che a un certo punto accetta una missione un po' più grande di lui, perché gli toccherà consegnare a chi gli paga appunto la taglia una piccola creaturina, che è un'altra delle motivazioni principali per il successo clamoroso di questa serie, che è Baby Yoda, del quale non dico niente per non spoilerare la serie, però sinceramente è delizioso da vedere e come dire, già si capisce quanto il Mandaloriano, rispetto davanti alla meraviglia di questa creaturina, abbia qualche, non dico ripensamento, ma insomma cambia un po' la sua vita. Tutta la serie è basata su questa caccia all'uomo, molto curata su certi dettagli, ribadisco, mi aspettavo un po' di più, sostanzialmente è un western spaziale, ecco, questa è la verità. Ebbè, ma perché tu sei un conoscitore della saga talmente profondo, a me è bastato davvero Baby Yoda per intenerirmi e vabbè, basta quello, insomma, secondo me l'hanno fatto in maniera straordinaria, infatti è pieno di meme in giro, in rete, perché è diventato subito un modello. Però a questo punto ti faccio uno sconsiglio. Please no, no, no! No! Quanto è difficile entrare in un universo già costituito e fare una serie nuova, fare uno spin-off o fare addirittura un remake? Allora, ci ho pensato e ho deciso qual è la serie di fantascienza che vi dico. Se per caso la incrociate, non guardatela mai, mai, mai, mai, mai. Sicuramente qualche replica può venire fuori, ma il remake della Donna Bionica, Bionic Woman, talmente brutto, nonostante Michelle Ryan protagonista, talmente brutto che non hanno nemmeno concluso la prima stagione. Un po' era capitata in mezzo a quel famoso sciopero dei doppiatori, eccetera, ma il pubblico era talmente calato che niente, non hanno manco finito la prima stagione. Quindi se per caso aveste nostalgia di quella donna bionica del passato, della nostra infanzia, ecco, il remake no. I remake sono pericolosi, come in questo caso, rifiutatevi assolutamente. Emilio, hai ragione, hai perfettamente ragione, ma guarda, c'è una sindrome di questi tempi che secondo me un po' contraddice una delle regole essenziali della drammaturgia, della narratologia, cioè il fatto con remake, con sequel, con prequel, di andare a spiegare sempre più in profondità, per esempio l'origine dei personaggi, per esempio l'origine di certi rapporti, di certe inimicizie o di certi sodalizi. Penso spesso anche ad alcuni film di guerre stellari del nuovo corso, quelli che in qualche modo vanno a spiegare per esempio da dove arrivi l'amicizia fra Han Solo e Chewbacca, ebbene il rischio di queste cose è di andare troppo vicino alla sorgente del mito. Come insegna la mitologia classica, l'origine del mito deve rimanere misteriosa. Ed è la costruzione immaginifica e fantasiosa dell'utente, del fruitore, a rendere il mito quello che è, cioè avere quello che una storia che ha una potenza fondativa e nel dare senso infinita. Se tu spieghi e ti avvicini troppo all'origine del mito, spiegandomi per esempio da dove arrivi la forza, cioè dai midichlorian, ebbene tu commetti un atto non solo, secondo me, quasi di, come dire, quasi blasfemo nei confronti della mitologia di Guerre Stellari, ma in realtà deludi molto, perché togli parte del mistero e quindi della potenza di quel racconto. Questo è un po', secondo me, il difetto dei tantissimi prequel o di quei film che tentano di approfondire, in realtà non approfondendo, ma rendendo più superficiale la storia che prima era magica. E poi diciamocelo, siccome sono miti in questo caso che vengono costruiti a posteriori, spesso sono delle enormi supercazzole e quindi possiamo anche... Il gergo tecnico è corretto, il gergo tecnico è corretto, sì. Mi incuriosisce molto questa serie di Hulu non c'è in Italia, ma sicuramente questa serie riusciremo a vederla prestissimo, che è Devs. This is your station? But what am I actually doing here? I'm not gonna tell you. Don't worry, you're gonna figure it out. If you came for answers, ask me what you don't know. What is Devs? Non so se tu hai già avuto occasione di vederla. No, ho già avuto occasione di vederla e fai bene a esserne attratta, perché è veramente affascinante, anzi quasi conturbante. C'è un fascino anche un po' perverso. Intanto perché è scritta e diretta da Alex Garland, che è uno che su questi temi, insomma, la sa abbastanza lunga. Qualcuno ricorderà anche la riduzione di annienti sempre sua, oppure di Ex Machina, è un film strepitoso secondo me. E poi perché c'è Sonoya Mizuno, che è una questa bellezza efebica davvero curiosa, che qualcuno ricorderà in La La Land, in realtà è una parte piccolina, ma soprattutto in Maniac è di Keri Fukunaga, qualcuno lo ricorda per True Detective. Insomma, vedi che c'è una compagine di personaggi abbastanza borderline curiosa, ma soprattutto Devs racconta di questo, non si capisce neanche se futuro, presente, di questo tempo. Siamo in California, c'è Amaya, una struttura privata ipertecnologica dove si studia e dove si lavora nella meccanica quantistica. Bene, questo Sergei, che è il fidanzato del personaggio interpretato da Sonoya Mizuno, viene assunto per lavorare nel reparto sviluppo, da qui Devs il titolo, di questa Amaya, scopre cose che non deve scoprire e succedono cose che non dovrebbero succedere e che chiaramente non vi dico. Da lì in poi la buona Sonoya comincia a indagare per scoprire che cosa è successo. Ebbene, vi garantisco che è solo... abbiamo semplicemente aperto, c'è solo una fessura in un gate che porta veramente in un racconto di scatole dentro scatole, di ombre che non si capisce esattamente cosa trasmettano. Davvero davvero bello, e fai bene a esserne attratta. Scritto benissimo, interpretato altrettanto bene e anche diretto molto bene. La fotografia è eccezionale, per esempio. Lo aspettiamo allora. Ti chiedo un'ultima cosa. Abbiamo citato Galactica. Sì. Galactica è un universo enorme. Lo è, e tra l'altro credo proprio Netflix abbia rimesso tutto Battlestar Galactica, ovviamente non la serie classica, quella degli anni fine 70-80, ma quella appunto creata da Ronald Moore, come stavamo dicendo prima. E sì, in qualche modo Galactica è stato, ripeto, la serie classica, la conseguenza dell'impatto di Guerre Stellari sul cinema e sulla cultura dell'epoca. Ha tentato di seguire quel tipo di suggestioni e quel tipo di universo costruito e inventato, e sì, è riuscita in maniera altrettanto efficace, credo io, a generare una mitologia e davvero un'epopea a parte. Era partito come imitazione di Guerre Stellari, è diventato una cosa a sé stante, con una mitologia propria, dei personaggi suoi e delle icone sue. Chi non ricorda Scorpion, che tra l'altro era lo sberla di A-Team, cioè sono tantissime le cose veramente passate nell'immaginario collettivo anche di Galactica. E io ovviamente, come tu sai, sono un fanatico nerd sfrenato e ho tutti i modellini delle astronavi del tempo, insomma, ci mancherebbe altro, le ho tutte. E Galactica era un'astronave, tra l'altro, dove i terrestri scappavano in un viaggio verso chissà quale meta, non rivelo perché si rovina tutto, insomma. Per conoscere l'universo di Galactica, da che parte partiamo? Cerchiamo questa del 1978 o possiamo andare anche un po' più avanti? No, si può partire dalla fine, diciamo, si può prendere appunto la serie di Moore, che tra l'altro anche in questo caso sono diverse stagioni, molto lunga, e che è fatta altrettanto bene e racconta in lungo e in largo, senza neanche l'ingenuità della serie, diciamo, degli anni 70, gli stessi eventi. Per cui decisamente partite dall'ultima serie e io prometto e garantisco grande divertimento per gli appassionati di fantascienza, ma non solo, anche per gli appassionati di storie scritte molto bene. Ecco perché io, che non sono appassionata di fantascienza, però devo dirti la verità, una serie di fantascienza l'ho amata moltissimo, e chissà se coglie la citazione, io ho amato moltissimo Maiali nello spazio. Beh, direi di sì. Ma guarda che la cosa bella della fantascienza, perché poi può essere declinata, come dire, anche in tanti altri generi, c'è tutto un filone della fantascienza, diciamo della commedia nello spazio, chiamiamola così, che è eccezionale. Io adesso ti cito una cosa abbastanza sconosciuta, ma secondo me fondativa. Vediamo se l'hai visto. Se l'hai visto, comincio a avere dei dubbi sul fatto che tu non abbia vissuto un'infanzia lisergica. Cioè Dark Star, il film con cui John Carpenter debuttò, era la sua tesi universitaria, è una presa per i fondelli niente meno che di 2001, Odissea nello spazio. Quindi immagina che cosa possa essere. Ebbene, in Dark Star in realtà in nuce ci sono 5-6 film che dopo hanno cambiato la storia del cinema, tra cui banalmente Alien, per dirti. Guarda Dark Star o guardate Dark Star e vi assicuro, garantisco anche in questo caso, divertimento assortito. È tutto per questo episodio dedicato alle serie fantascientifiche. Con noi Emilio Cozzi, giornalista, scrittore, appassionato di cultura nerd e digitale. Con me a realizzare Ancora una poi smetto, Alessandro Schirano e Paolo Corleoni. Tutta la serie è sul sito radio24.it e sulla app di Radio 24 e disponibile sulle principali piattaforme di streaming.